Essere e avere di Maria Luisa Pezzali. Ben ritrovati da Maria Luisa Pezzali. Change.org, la più grande piattaforma di attivismo online, supera i 200 milioni di utenti, i 7 milioni in Italia. Una piattaforma da cui sono passate e passano tuttora anche tante battaglie legate al consumerismo. L'ultima in ordine di tempo, quella a difesa del pomodoro made in Italy. Per molti di noi è ormai diventata un'abitudine quella di riempire la busta della spesa una volta all'anno per i più bisognosi. Sabato prossimo, il 25 novembre, torna la giornata nazionale della colletta alimentare, iniziativa che invita i consumatori a un gesto di solidarietà nei supermercati di tutta Italia. Focus sui trend dedicato ai prodotti che fanno compagnia, dal cuscino gatto all'aspirapolvere robot. If I can reach the stars, pull one down to you. Creata nel 2007 negli Stati Uniti, Change.org è la più grande piattaforma di petizioni online al mondo, con una formula unica che unisce tecnologia, business e cambiamento sociale. Da Change.org anche in Italia sono passate molte battaglie consumeriste. Luca Francescangeli. Change.org, che è la più grande piattaforma di attivismo online del mondo, ha ormai superato i 200 milioni di utenti in tutto il mondo e oltre 7 milioni sono gli utenti italiani che ogni giorno si attivano sulle questioni che a loro stanno più a cuore. Può essere una piccola questione locale come una grande questione di tipo nazionale. Ma la cosa interessante è appunto questa grande volontà di attivarsi, questa grande volontà di cambiare il paese, le cose che ci stanno intorno. Chi segue Change.org, sicuramente alcune persone che sono all'ascolto sono anche i nostri utenti, alcuni di loro magari hanno firmato quelle che sono state nell'ultimo periodo delle grandi campagne. Una di queste, ad esempio, che mi piace ricordare è quella della trasmissione televisiva Le Iene, che 2 anni fa aveva lanciato attraverso un servizio la richiesta che il Made in Italy, nello specifico i prodotti derivati dal pomodoro, fossero etichettati in maniera chiara e inequivocabile per i consumatori, in maniera tale che chi compra un sugo pronto possa sapere da quale stabilimento provenga il pomodoro che è stato utilizzato per il sugo. Bene, questa petizione ha raggiunto oltre il 500.000 di firme, 525.000 firme, ed è ad oggi la più grande vittoria di una petizione online in Italia. Molte delle vostre petizioni sono battaglie consumeriste. Effettivamente è vero, c'è un'attenzione particolare da parte degli utenti di Change.org sulle questioni che riguardano i consumi. Una delle questioni che è entrata nella legge di stabilità anche attraverso una grande mobilitazione su Change.org è la questione della fatturazione ogni 28 giorni delle bollette. C'è una grande petizione in merito che è stata lanciata da Elio Lannutti, che è il presidente dell'ADUSBEF, anche ex senatore, che ha raggiunto ad oggi oltre 175.000 firme, ma ci sono anche altre 2 petizioni rilevanti che chiedono la stessa cosa, questo ritorno alla fatturazione ogni 30 giorni e non più ogni 28, per un complessivo totale numero di circa 300.000 firme raccolte sulla piattaforma. Spesso si dice che le persone non abbiano voglia di ingaggiare, non abbiano voglia di provare a cambiare le cose. Quello che io vedo ogni giorno su Change.org è che in realtà ci sono tante persone, tanti italiani e italiane che vogliono provare a cambiare le cose, che ci credono veramente e che si attivano su questioni sia di tipo locale sia su questioni di tipo nazionale. Stiamo creando una comunità di, chiamiamoli, super utenti che decidono di aiutare la piattaforma a rimanere libera e indipendente, così come ora. Lo fanno dando una sottoscrizione mensile a cui noi poi in cambio diamo una serie di cose, diamo una newsletter mensile sulle campagne che a loro interessano di più, diamo del merchandising, li invitiamo ad eventi esclusivi per i changer e così via. In questa maniera possiamo mantenere la piattaforma libera, indipendente e gratuita per tutti. Sono più di 2.500 persone e sicuramente ce ne saranno molte, molte di più nei prossimi mesi. Proteggerò dalle paure delle ipocondrie, dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via. È diventato l'evento di solidarietà più partecipato di questi anni. Mette in campo 145.000 volontari in quasi 13.000 supermercati sparsi in tutta Italia. Sabato prossimo, 25 novembre, ci inviteranno a fare una spesa in più per chi ne ha bisogno. È la giornata nazionale della colletta alimentare, giunta quest'anno alla sua 21esima edizione, promossa dalla Fondazione Banco Alimentare. Il presidente Andrea Giussani. Il lavoro di tutto l'anno del Banco Alimentare di recupero eccedente diventa una volta all'anno una proposta a tutti gli italiani. Fate anche voi qualcosa per chi ha fame. L'anno scorso abbiamo raccolto circa 8.500 tonnellate di alimenti conservati e quindi di lunga durata. Li distribuiamo nei mesi successivi alle circa 8.000 strutture caritative che sono convenzionate con noi, quindi Caritas, parrocchie, banchi di solidarietà, comunità d'accoglienza. Queste le consumano poi e le distribuiscono ai loro assistiti nei 2-3 mesi successivi. La stima è che noi con questo, cioè le strutture caritative convenzionate con noi, e che sostengono circa 1.700.000 persone. La fame c'è in Italia, lei ha ricordato. Che dimensioni ha il fenomeno? E la l'Istat dice, nell'ultima rilevazione di un anno e mezzo fa, dice che gli italiani in povertà assoluta e quindi che non hanno un'autonomia di sostentamento anche per il mangiare è di 4.700.000 persone. Io la dico, se vuole, in un modo un po' più brutale: se uno cammina per strada in una luogo normale, in una città come la nostra, ogni 13 persone, la 14esima è una persona in questo stato. In questi anni la vostra iniziativa è diventato uno degli eventi di solidarietà in assoluto più partecipati, una partecipazione che unisce, che aggrega di per sé persone di ogni credo, di ogni etnia. Questa è una maturazione avvenuta negli anni e credo anche una grandissima scoperta di umanità, perché è noto a tutti che la colletta alimentare nasce da una radice cristiana. Cattolica, perché i primi promotori di questa erano così, venivano da questo mondo. Noi consegniamo per esempio un volantino in cui si indicano i prodotti, in cui si cita le parole del Papa che ha indetto questa giornata mondiale dei poveri domenica 19, ma ciò nonostante il gesto è aperto e proposto a tutti. Le cito solo per dire la solidità di questa affermazione che ormai partecipano a questa un numero incredibile di persone di altre religioni, non solo come partecipanti a donare, ma anche come partecipanti a fare i volontari, e quindi musulmani, ortodossi, piuttosto che, cioè persone che nulla hanno a che fare con la radice di questo gesto, che è un gesto umano innanzitutto, quello di scoprire che il tuo vicino di casa ha bisogno di un tuo piccolo aiuto, una spesa in più. Poi ci sono anche immigrati, persone ormai integrate nella nostra società, che vengono ad aiutarci a fare i volontari. In chiusura, allora, ricordiamo che cosa serve comprare. Sì, soprattutto gli alimenti più nutritivi, più utili e anche che normalmente facciamo più fatica a recuperare durante l'anno, e che sono olio, scatolame di conservati di pesce e di carne e di legumi, alimenti per bambini, perché la povertà assoluta ha colpito moltissimo la categoria dei minori. Robot, ma non solo, si moltiplicano gli oggetti che aspirano a farci compagnia. Ne parliamo tra pochissimo, subito dopo la pausa. Restate con noi. Essere e avere. Gli oggetti devono fare compagnia. Achille Castiglioni. Focus sui trend. Così uno dei grandi maestri del design ispirava generazioni di progettisti con una massima che oggi più che mai trova una ragion d'essere nel mondo dei consumi, non solo quando parliamo di tecnologia e di robot che presto popoleranno la nostra quotidianità. Lo rivelano i casi che ha raccolto per noi Lucia Cromezca di Future Concept Lab. Ciao Lucia, bentrovata. Buonasera a tutti. Allora, iniziamo con un oggetto che mi ha incuriosito moltissimo, è uno di quei prodotti che dividono tra chi li ama e chi li odia. Lucia, di cosa si tratta? Partiamo con un animale domestico high-tech che si chiama Kubo. Arriva dall'Oriente e è stato ideato da un'azienda giapponese che si chiama Yukai Engineering. È un gatto robot vero e proprio, assomiglia ad un cuscino peloso con la coda. Quando lo si accarezza, la coda si muove. È un gatto però senza testa né arti. Si può coccolare perché è realizzato in pelo sintetico e pensato per fare compagnia come un gatto ai bambini, agli anziani, alle persone che vivono da sole, no? L'azienda giapponese che ha lanciato l'oggetto Robono sulla piattaforma crowdfunding Kickstarter, ho visto l'altro giorno che ha già superato l'obiettivo parecchio e mancano ancora una ventina di giorni. La consegna del gatto robot è prevista a settembre 2018. Postiamo come sempre le immagini sulla nostra pagina Facebook. Io ho già fatto un piccolo test in redazione, Lucia, e tutti lo volevano, quindi... è però inquietante. Quello sì, resta. Questo aspetto lo lasciamo valutare anche agli ascoltatori, ma restiamo in ambito domestico con uno di quei robottini aspirapolvere. Questo però è molto particolare. Presentato qualche settimana fa l'edizione limitata dei nuovi robot Samsung, robot aspirapolvere che si chiamano Powerbot VR 7000, che sono stati ispirati a Star Wars per celebrare ovviamente in anticipo l'uscita del film Star Wars e gli ultimi Jedi. Il Powerbot uscirà in due versioni, una che assomiglia al casco di Darth Vader e uno che assomiglia al famoso Stormtrooper. I robot aspirapolvere replicano alcune delle caratteristiche della versione tradizionale, ma c'è una nuova funzione sonora incorporata. Accendendo il modello Darth Vader si riproduce il suono del tipico respiro che ha reso celebre il personaggio, no? Che molto ha a che fare tra l'altro con la polvere, no? In qualche modo. Uno bianco, uno nero, quindi, Lucia. Sì. E poi diffonde anche il suono della cavalcata degli ottoni della Marcia Imperiale. Stormtrooper, invece, come modello, durante l'uso, riproduce semplicemente le note del tema principale di Star Wars. Samsung ha detto che le due unità raggiungeranno soltanto le case coreane. Beh, dobbiamo fare richiesta perché anche questo immagino insomma sia uno dei prodotti che trova ampio consenso. I robot, ci dicono molti studi, sostituiranno l'uomo in molte mansioni, in molti casi però sarà un affiancamento. Il mondo dei retail va in questa direzione. Ecco, lo vedremo con due esempi. Innanzitutto Walmart, che crea una nuova flotta di robot autonomi che saranno installati in 50 supermercati negli Stati Uniti. Sono dei robot alti circa 2 metri, possono eseguire con velocità la scansione degli scaffali nelle corsie e controllare e identificare i prodotti mancanti e anche i prezzi errati. Non hanno nessun tipo di braccio e non possono ovviamente fisicamente riallocare i prodotti, ma raccolgono dati e vediamo che in questo caso la flotta di robot autonomi è stata immaginata per assistere i dipendenti nelle mansioni anche noiose e ripetitive, e che vediamo questo tipo di assistenza anche nell'altro caso scelto, il primo postino robotico che è stato presentato da Deutsche Post, le poste tedesche. È un robot pensato per trasportare pacchi e buste in città. Il progetto, che è attualmente in fase di test, come anche quello di Walmart, propone un robot elettrico a propulsione che grazie a un sensore di prossimità può accompagnare chi deve effettuare le consegne, trasportando posta e pacchi, perché ha una portata di carico massima a 150 kg. Sembra una sorta di furgoncino di color giallo, carino. Per ora possono dare una grossa mano al postino vero e proprio, ma in futuro può anche seguire delle distribuzioni da solo questo piccolo robottino. Si immagina già come si possono prenotare le consegne via app e il robot che arriva a casa tua e poi tu devi solo digitare nel tuo smartphone per far sbloccare il vano contenitore e ritirare il collo. Ecco, sono scenari sul futuro. L'elemento da sottolineare è che iniziano a diventare, lo diventeranno sempre più, presenze familiari, insomma, che popoleranno proprio la nostra quotidianità nelle varie situazioni. Nel mondo del design in questi anni i cosiddetti art toys, cambiamo argomento, i collezionabili, hanno avuto un ruolo importante, oggetti spesso in serie limitata da collezione, appunto con il prossimo caso Lucia ci tuffiamo in questo mondo. È un progetto ideato da un architetto bolognese, Federico Bambina, è molto famoso perché durante gli ultimi anni si è ritagliato una nicchia nell'ambito dell'illustrazione, che proprio enfatizza il rapporto tra l'architettura e la cultura pop. Parte da una serie di ritratti di celebri architetti che poi acquisiscono una forma fisica in ceramica. Arctoy ha presentato questi tre manufatti in ceramica in edizione limitata, in cui vengono rappresentati in una maniera anche super minimal in bianco e nero Le Corbusier, Frank Gehry e Oscar Niemeyer. Mini figurine Corbu, Franchi e Nai si possono acquistare online e forse presto ne arriveranno altre. E c'è addirittura, siamo all'ultimo caso, chi ha pensato di trasformare il proprio curriculum in una minifigure, in un giocattolino così da tenere compagnia, dico io, Lucia, al selezionatore in questo caso. Geniale! Andy Morris è un giovane artista britannico che ha trovato un modo veramente originale per proporre il suo curriculum in giro. Invece del classico CV cartaceo, ha detto punto tutto su una figura friendly, che altro che l'ego, no? Ispirata totalmente alle sue sembianze fisiche, ha pensato di rappresentare attraverso una mini figura le sue competenze e le sue esperienze lavorative. E lo vediamo anche nelle foto che hanno spopolato nella rete, che Andy Morris va in giro come un mini Lego con un piccolo PC portatile in mano e abbigliamento casual. Ecco, questo mini giocattolo che lui ha creato, prima di inviarlo ai suoi possibili futuri datori di lavoro, gli ha anche creato una confezione molto curata, in copertina incluso i dati essenziali come il suo nome, l'età e l'impiego ovviamente desiderato, all'interno ovviamente di un mondo creativo, e su retro ha aggiunto una breve presentazione di quello che ha fatto in passato. È una trovata che non è passata inosservata sicuramente, non solo dai tantissimi amanti dei Lego, ma anche da chi veramente nei social media parla di creatività. Lucia Cromesca, grazie, alla prossima. Alla prossima. Il consumautore. Dai film ai libri, passando per i fenomeni di costume e di consumo, sono molti i segnali che anticipano o accompagnano il cambiamento. Noi li decifriamo ogni settimana in compagnia del nostro ospite fisso, il sociologo Francesco Morace. Buonasera Francesco. Buonasera Maria Luisa. Questa sera partiamo da una riflessione collettiva che è contenuta in un libro, si chiama L'arte della sostenibilità, curato da Rossella Sobrero, ma che è contenuto anche nell'attività che Rossella Sobrero porta avanti con il suo Salone della Responsabilità Sociale, è una realtà che tu conosci bene. Ecco, in questo libro, L'arte della sostenibilità, a partire già dal titolo che io ho trovato molto interessante, perché l'arte dell'essere sostenibile è una cosa che ormai rappresenta anche i consumatori, non solo le aziende o i produttori. Tutti noi siamo impegnati in quest'arte quotidiana di trovare il giusto equilibrio tra la qualità e la quantità, no? In qualche modo, e quindi trovare ciò che è sostenibile in un senso molto più allargato di un tempo. Ecco, quelli che per noi, per la nostra generazione, sono stati concetti in qualche modo da metabolizzare, da assimilare, da acquisire in modo diverso poi a seconda delle sensibilità individuali o aziendali, se parliamo di progetti aziendali, per le nuove generazioni invece, per i millennials, i centennials, sono un dato di fatto, sono insiti nel loro modo di vedere le cose, nelle loro scelte di consumo e di vita. Questo è molto interessante, perché fino invece a una decina d'anni fa questo tema della sostenibilità, dell'attenzione all'ambiente, era molto adulto. I ragazzi giustamente erano preoccupati ed erano interessati ad altro. Oggi invece crescono generazioni che considerano la sostenibilità parte della loro capacità di scegliere, e quindi è davvero, anche per merito probabilmente in questo caso dei genitori, degli adulti e dei loro insegnanti, che fin da quando sono molto piccoli cominciano a spiegare che esiste la qualità del sostenibile. Quindi questo vuol dire per le aziende che bisogna ragionare su prodotti che siano sostenibili in partenza, quindi non è più un argomento di marketing, un po' come la rivoluzione igienica della fine Ottocento, no? Oggi nessuno parlerebbe più di igiene perché è dato per scontato. E allora in questo contesto quale ruolo continua ad avere la comunicazione nel rendere appunto competitivi i fattori legati all'etica, alla sostenibilità? Il ruolo della comunicazione si avvicina molto a un'idea di trasparenza che peraltro a noi italiani non appartiene molto, no? Appartiene più al mondo nordico, no? Alle grandi democrazie del nord, e invece dobbiamo capire che fine del greenwashing, fine di un'idea solo comunicativa di sostenibilità e di ecologismo, e inizio invece di onestà nei processi e nel racconto di questi processi produttivi. Grazie a Francesco Morace, grazie a Roberta Frisani in regia. Essere Avere finisce qui. A domenica prossima. Un saluto da Maria Luisa Pezzali.